Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Alberto Chiesi, primo responsabilità sociale. Di Anna Marino. Bentrovati a Voci d'impresa. Oggi ci occupiamo della storia e delle vicende di Alberto Chiesi, presidente e amministratore delegato dell'omonima azienda Chiesi Farmaceutici e, oltre a essere industriale del settore, è vicepresidente della Fondazione Chiesi. Per questo sente una grande responsabilità verso la salute delle persone, vero? Sì, io faccio l'imprenditore farmaceutico da tantissimi anni e ho avuto sempre ben chiara dentro di me, e l'hanno avuta anche le persone che lavorano con me, l'idea che lo scopo della nostra azienda è quello di produrre dei beni, che sono oggi i farmaci e in futuro forse anche dei servizi, che aiutino le persone a migliorare la loro qualità di vita e in fondo, in definitiva, la loro salute. Quindi noi cerchiamo di produrre farmaci efficaci e il più possibile sicuri che vadano incontro alle necessità terapeutiche dei pazienti non ancora soddisfatti. Da noi l'attenzione alle persone, sia in quanto sono nostri clienti e sia in quanto fanno parte dell'azienda, è massima. Sono le persone al centro della nostra attività. Questo è, diciamo, la vostra missione, ed è soprattutto per questo che si parla anche di una dimensione etica dell'imprenditore. Ma nel caso nostro, come dicevo, producendo dei beni che sono i farmaci, che sono destinati esclusivamente a migliorare lo stato di salute delle persone, questa deve essere di necessità lo scopo principale dell'azienda. Poi l'azienda deve andare bene, deve vendere, deve progredire, deve quindi avere i fondi necessari per crescere, deve investire in ricerca, ma sostanzialmente il nostro target sono i pazienti. Certo, la storia della vostra azienda, la storia dei fondatori, i primi ricordi che le sono stati segnalati, raccontati e che lei ha e tiene come cari, può dirci qualche immagine, raccontarci qualche immagine della storia, degli inizi proprio dell'azienda e della storia seguente? Sì, guardi, oggi noi siamo due fratelli, Paolo, che segue la ricerca e sviluppo, e io, e anche tre nostri figli lavorano in azienda con noi. L'azienda è nata quando nostro padre, che si chiamava Giacomo, la fondò nel 1935, lasciando un'attività di farmacista. E dopo la distruzione della guerra, l'azienda è ripartita all'inizio degli anni 50 ed era allora una piccola realtà a livello esclusivamente nazionale, però con alcuni prodotti originali che nostro padre aveva messo insieme e collaborando con alcuni illustri medici. Nella seconda metà degli anni 60 nostro padre, in maniera abbastanza decisa, ci ha passato il timone e quindi abbiamo iniziato a operare in azienda in totale autonomia. I primi prodotti originali sono arrivati dopo una decina d'anni, insomma nel metà degli anni 70, e lì abbiamo fatto anche la scelta di iniziare la ricerca nel settore respiratorio. Poi dall'inizio degli anni 90 abbiamo capito che per poter continuare a crescere era assolutamente necessario internazionalizzare l'azienda. Così in 15 anni abbiamo aperto 23 filiali all'estero, soprattutto in Europa, ma anche in Brasile, in Russia, in Cina e recentemente negli Stati Uniti. E vendiamo all'estero oltre il 60% dei nostri prodotti. Ecco, i primi tempi in cui l'azienda che aveva avuto i suoi natali a Parma, come dice lei, nel 1935, qual era la situazione della salute? Come si muoveva in questo campo un'azienda nata con lo scopo di tutelare proprio la salute delle persone, dei pazienti? Ma io ricordo bene che nostro padre passava una parte importante del suo tempo a parlare con i medici. Cioè cercava di capire, parlando con dei clinici, con i clinici anche di una certa fama, anche clinici illustri anche in varie città italiane, quali erano secondo loro le necessità non ancora coperte o coperte in maniera sufficiente di varie patologie. E poi tornava a casa e andava a parlare con i farmacologi, con i suoi tecnici farmacisti, per vedere se si poteva mettere insieme un prodotto per lo più con principi attivi noti, perché allora la ricerca non inventava cose completamente nuove. Insomma, mettevi insieme delle combinazioni che hanno avuto, direi, una buona accoglienza da parte dei medici. Questi erano i tempi, diciamo così, eroici dei primi anni. Ecco, per quanto riguarda il suo passaggio generazionale, ci ha già raccontato come è avvenuto. C'è una ricetta che può essere utile, che lei può consigliare per i passaggi generazionali in azienda, quando le aziende sono proprio familiari e quindi sono nate e cresciute nel seno di un nucleo familiare? Ma guardi, qui, come dico, questi tre giovani, che non sono più ragazzi perché hanno tutti 40 anni, sono operativi in azienda e sono anche in settori importanti, e devo dire con notevole concordia e con visione comune. E certamente nei prossimi anni io e mio fratello ci daremo il controllo operativo, cercando di mantenere una posizione di indirizzo strategico. E io sono convinto che i tre cugini, con il nostro aiuto, troveranno loro le migliori soluzioni per la guida operativa dell'azienda. E non escluderei neanche la possibilità che a un certo punto si nomino anche dei manager esterni alla famiglia. Loro sono molto aperti su questo punto, e già oggi in consiglio di amministrazione abbiamo alcuni consiglieri indipendenti esterni alla famiglia. Io non credo che ci sia una ricetta che vada bene per tutte le aziende familiari, secondo me ognuno se la deve trovare. C'è anche diciamo un aspetto molto importante diciamo della vita proprio di una famiglia legata all'impresa, che è quello che riguarda il bilanciamento tra vita e lavoro. Confermo e confesso che l'azienda ha sempre assorbito una parte importante del mio tempo, e anche in modo continuativo, e su questo punto devo molto a mia moglie, che è riuscita a entrare con attenzione, anche se restando completamente fuori dal business, e con quell'interesse affettuoso che ha consentito di mantenere il rapporto famiglia-azienda, a mantenerlo buono e consentendo a entrambi di vivere una vita familiare serena e piena, direi, insomma, senza sacrifici eccessivi di nessuno dei due. La Fondazione Chiesi, che è diciamo un evidente pilastro di questa responsabilità sociale d'impresa, che unisce anche la ricerca in campo medico, è una fondazione che costituisce un po' un pensatoio, diciamo si vuole anche cercare una nuova frontiera della responsabilità sociale d'impresa per renderla sempre più presente nella vita di tutti, anche in campo ovviamente farmaceutico. Beh, una fondazione in cui si hanno rapporti con persone anche estremamente lontane dal campo farmaceutico, ma magari sempre interessate al sociale, consente sicuramente di farsi delle idee nuove e magari molto diverse da quelle che circolano normalmente in azienda sul futuro. E per certi versi è un modo di sperimentare delle cose diverse che non possiamo fare come azienda, e dall'altro campo un modo per ricevere indicazioni, suggerimenti, proposte, iniziative da seguire. Questo è un aspetto molto molto ricco che ci interessa. E anche mettere in piedi, diciamo, iniziative umanitarie in Europa, in paesi via di sviluppo. Certo, man mano che la fondazione avrà fondi sempre crescenti, speriamo di poter anche raccoglierne anche all'esterno dell'azienda, questo secondo aspetto di assistenza, soprattutto in paesi in via di sviluppo, paesi del terzo mondo, e soprattutto nei settori che conosciamo bene, dove quindi siamo in grado di lavorare in modo non velleitario, per esempio le patologie respiratorie, le patologie neonatali. Ecco, questo sicuramente consentirà alla Fondazione di aumentare il suo raggio d'azione sempre di più. Questo è l'obiettivo. Si può parlare di un futuro del farmaco, e si può parlare anche di un futuro per quanto riguarda le risorse umane, i talenti, la gestione delle capacità. Per quanto riguarda le risorse umane e i talenti, il futuro sono loro, lo dico sempre, lo diciamo sempre che l'azienda è dei giovani e guai se non ci fossero dei ricambi di gente che ha 30 anni o 40 anni meno di noi. Sicuramente nella gestione dei talenti, nella gestione delle persone che guideranno l'azienda negli anni futuri, è il futuro della nostra azienda. D'altra parte, la nostra idea non è quella di diventare un'azienda di enormi dimensioni a tutti i costi. Noi non vogliamo diventare una big pharma, noi vogliamo essere considerati come un'azienda di qualità eccellente in quei settori terapeutici in cui siamo presenti, cioè di fare le cose bene, limitatamente a quello che sappiamo fare. D'altra parte, il futuro del farmaco è per certi versi in discussione oggi. Qualcuno pensa che l'attuale modello di business del mondo del farmaco potrebbe cambiare notevolmente nei prossimi 10-15 anni. Io faccio questa considerazione. Molte malattie croniche sono oggi abbastanza ben curate con i farmaci esistenti. Penso per esempio all'ipertensione o alla ipercolesterolemie, per certi versi al diabete, alcune forme di depressione o disturbi della coagulazione, sono curati bene sotto controllo con i farmaci che ci sono. In questi casi è evidente che le terapie in futuro si faranno sempre di più con i farmaci generici, perché questi farmaci diventano tutti generici. Restano scoperte alcune malattie croniche come la bronchite cronica, per certi versi il diabete, l'Alzheimer, l'artrite reumatoide, l'osteoporosi e altre che non sto a ricordare, per cui sarà sempre necessario trovare dei farmaci più efficaci. E poi c'è il vasto mondo delle malattie rare o comunque con piccoli numeri di pazienti, di malati, e su questi che credo si indirizzeranno sempre di più gli sforzi di ricerca delle grosse aziende e anche delle aziende come la nostra. Qui però c'è un problema di gestione del farmaco. Per esempio, le malattie rare spesso necessitano di un servizio personalizzato di diagnosi, terapia e controllo mirato sul singolo paziente. E credo che le aziende farmaceutiche, quindi, se vogliono occuparsi di malattie rare, dovranno farsi carico di tutto il servizio di terapia e assistenza per questi malati. E quindi non sarà sufficiente solo vendere la scatola di medicina, ma occorrerà gestire la cura dei singoli pazienti, e questo richiede sicuramente un coinvolgimento molto più elevato delle aziende con il Servizio Sanitario Nazionale. Sempre sul fronte dei valori e delle risorse umane, colpisce la frase "ognuno di noi è Chiesi". Ecco, è un messaggio molto forte all'interno dell'azienda ed è un messaggio molto forte all'esterno dell'azienda. È un messaggio che può essere anche un po' universale, cioè di essere coinvolti da quello che si fa professionalmente e nella vita, vero? Sì, questo viene anche dal fatto che in un'azienda come la nostra, che fa tutto il ciclo dalla ricerca allo sviluppo clinico, alla produzione, alla commercializzazione del prodotto, se non c'è una squadra ben affiatata non si riesce proprio a lavorare. Quindi ognuno di voi è Chiesi, come lei? Ognuno di noi è Chiesi, o perlomeno noi speriamo che sia così. Finisce qui la puntata di oggi di Voci d'Impresa. Abbiamo parlato con il presidente amministratore delegato di Chiesi Farmaceutici, Alberto Chiesi, e ci occuperemo di un'altra storia in un'altra puntata. Un cordiale saluto da Anna Marino.